Daniele, io sto bene, stai bene? Queste stai giornate bene. Solari. Stai bene, ma sei sicuro che tu sei... Sta bene, sei sicuro che tu sei irlandese, non un napoletano che fa l'irlandese? Sono quasi acquisito qua adesso, tutti i costumi. Perché uno che mi fa sto bene, insomma mi sembra, va bene. Comunque una cosa che noto, anche tu hai tagliato i capelli, non sono l'unico, abbiamo tagliato tutti i capelli tranne Gino Palumbo, che si ostina a continuare ad avere il suo look Maria Teresa Ruta, versione bruna, anni 80 aggiungerei. Va bene, Fergal, sei pronto? Sono un amico, sì, sono un amico di tutti, mi dicono dalla regia, va bene. Fergal, tu sei pronto a dare anche questa settimana le 40 posizioni più gettonate della settimana? Più pronto di questo non posso essere, perché adesso, tra pochissimo, dopo le punte orario. No, veramente ora, non tra ora, pochissimo, ora. Tra poco, cioè, mommo si dice a Napoli. Mommo, voglio. Mommo, voglio. Va bene, Fergal, allora ti trovo in splendida forma, quindi io ti cedo volentieri la linea, quindi fra pochissimo, ragazzi, ascoltate Top 40 in compagnia di Fergal, è proprio tutto. Noi ci ritroviamo domani. Ciao. Ladies and gentlemen, the clock. Le 15. Hello everybody, this is Fergal Gavin. Voi state ascoltando Radio Tour e siamo qua per mettere i 40 brani più richiesti da voi questa settimana. Voi avete chiamato, avete chiesto questi 40 brani che sono i più conosciuti, i più piaciuti dell'estate. Quindi facciamo se fosse una giornata bellissima di sole. Siamo in mezzo all'estate, pieno luglio, e dobbiamo adesso mettere il numero 40, che sarà The Time to Begin, The Time is Now. It's Moloko at number 40. Top 40 hits. Il bel prato sotto il sole, pensando ad altre cose con questa bella musica come il soundtrack. The sound of the summer here on Radio Tour, the moving station. Oasis with Who Feels Love. Non c'è molto amore adesso in casa di Liam Gallagher, infatti, perché ha offerto metà di suo patrimonio per divorziare a Patsy Kensett. Dopo 3 anni di matrimonio, e pure il figlio, che si chiama Lennon, dice voglio chiudere presto e andare via. Quello dicono, cioè le voci dicono che gli Oasis valgono 123 milioni di dollari, quindi Patsy Kensett guadagnerà un bel po' qua. Comunque non le auguro a nessuno questo modo di guadagnare. Noi siamo arrivati al posizione 39, questo è Oasis Who Feels Love. Guardiamo al 38 e troviamo Ricky Martin with Private Emotion. Rive pure, infatti immagino che le rive del mare sono molto pure adesso, visto che abbiamo avuto un bel po' di pioggia, quindi vuol dire quando esce il sole un'altra volta, che speriamo può darsi sarà anche domani o domani altro, che troviamo il mare molto pulito. Vabbè, auguriamo. E tutto non è molto puro in campo degli All Saints. C'è un voce che dice che lascerà tra poco uno delle gruppe, però ancora non si sa, aspettiamo a sapere, forse sarà Nicole Appleton, non lo so, non si sa. Comunque a voi non importa, perché vi piace così tanto che l'avete messo il numero 37. Noi prendiamo un piccolo pausa e torniamo tra poco col 36, Kellis Good. Roba buono, e non sta scherzando, perché voi l'avete scelto al numero 36 sulla classifica dei brani più richiesti da voi su Radio Tour, the Moving Station. Avete chiamato intanto questa settimana e voi le soddisfacciamo adesso. Yes, allora, good stuff proprio. E notizie di Kellis, mi sembra che sta lavorando con Moby adesso, e sul prossimo album di Moby dovrebbe essere la voce che farà tutti i pezzi. Sarà un gran bella cosa questa. Allora, a proposito di good stuff, roba buona da fare, ragazzi, mi raccomando, perché non mettete il casco? Io qua scendendo adesso, io sono sceso con i mezzi pubblici, però motorini di qua, di là che superavano, pure i grandi moto, grandi cilindrati senza casco, sono pazzi, siete pazzi se non mettete il casco, mi raccomando. Allora, noi vogliamo andare avanti con le vostre richieste. Avete messo il numero 35, un gran bel canzone di Ligabue, però prima di farlo sentire voglio ringraziare a Gino Palumbo, che sta facendo tutti i movimenti. Yes, questo fischio è per il nostro Bandieres. Era in vacanza in Spagna, c'è scritto in giornale adesso. Ma che fai davanti a me se sei in Spagna? I don't know, I know nothing. So solo che al numero 35 troviamo Ligabue con Almeno Credo. Position number 3. La bellissima voce di Sinead O'Connor, continuo a dirlo, però mi fa soltanto piacere sentire questa canzone, perché è un irlandese, eppure c'ha un cuore buonissimo Sinead O'Connor. Tante polemiche per lei in passato, però il cuore ci sta. Infatti adesso è uscita la notizia che ha registrato una canzone insieme a Thomas Dalby e Cold Cuts, tra altri, che hanno registrato in un'ora sull'internet in studio diverso sparso per il mondo, e hanno fatto un cover di una canzone di Bob Marley, Them Belly Full But We Hungry. E se voi le volete comprare, andate sul sito Warchild, www.warchild.co.uk, e tutti i soldi guadagnati saranno andati in beneficenza al Warchild. Piccolo pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con Harabe Di Paolo. Dipende se c'è il sole, dipende che c'è un po' di pioggia, speriamo che non ce ne sta tanto. I previsioni dicono che migliorerà molto il tempo, quindi possiamo godere quest'estate che stavamo godendo fino a poco fa. Ma continuiamo a godere un piccolo pausa da questo sole infernale. Io sento proprio pozzo a posto adesso, perché essendo irlandese questo è più vicino a tempo mio. Allora, noi stiamo guardando, noi stiamo sentendo i 40 brani più richiesti da voi su Radio 3 The Moving Station. Siamo arrivati al numero 33 con Harabe Di Paolo, e vediamo il numero 32, la bellissima signoretta Carlotta. Se voi siete in macchina, se siete in movimento e ci avete i piedi vicino al pedalo, perché non mettete una piccola piede su quello della frena, perché al numero 32 abbiamo Carlotta. Position number 32. Uno scandalo, è proprio un bel scandalo questo, perché Kirsty MacColl si trova al numero 31. Io l'avrei messo proprio top 5, però avete voi siete quelli che avete scelto al numero 31, anzi mancano 30 posizioni da ascoltare. E che vuol dire? Abbiamo sentito un bel quarto del classifico oggi. In these shoes, in queste scarpe. Infatti adesso che il tempo è un po' peggiorato, mi sono messo le scarpe a posto per stare in giro per la città. E meno male, perché qua dentro c'è un'aria condizionata che fa paura, che di solito vado in giro con sandali. Meno male che in these shoes sono venuto oggi, sto proprio bene. Perciò adesso facciamo una piccola pubblicità e torniamo con le Rishes al numero 30. S-S-E-D-O-O-T. Orishes, mi sembra proprio di essere al Neapolis Rock Festival di una settimana fa, perché i Orishes hanno fatto proprio una bellissima presentazione della sua musica la settimana prossima, sabato scorso, al Neapolis Rock Festival, e noi di Radio Church eravamo, è normale. Allora adesso troviamo proprio un posizione più avanti di loro, al numero 29, un pezzo che vi faccio ascoltare tra pochissimo, però volevo segnalarlo adesso, perché pure lei, Elisa, era al Neapolis Rock Festival venerdì scorso, è stato bellissimo. Mi sto tornando indietro come stare a Bagnoli. Comunque aspettiamo l'anno prossimo per un'altra grande cosa del genere, però l'estate è pieno di concerti, le godiamo, e è pieno di grandi eventi adesso. Se avete carte e penna, firmate tutto. Radio Tour in Tour con Jackie, sabato 15 luglio, stasera discoteca Eclipse, animazione, gadgets e la nostra Moving Station. Eclipse, uscita tangenziale, Varca Tour a Napoli. Radio Tour in Tour. Yeah. 081 790 1411. E che si trova? Dove si trova? Si trova al numero 28, grande Pierpaolo Pelù, e ci sarà proprio a Bologna a settembre. Fa come parte della festa dell'unità, fa un concerto insieme al suo grande amico Ligabue, che sarà di beneficenza con la solidarietà con l'Africa. Ci saremo pure noi, magari, vediamo settembre. Settembre è tra poco, basta comprare un biglietto del treno e ci troviamo a Bologna, dove troviamo Pierpaolo e Ligabue. Allora adesso facciamo un piccolo controllo dell'orologio e poi torniamo subito con il numero 27, è Bumblebee. Ladies and gentlemen, the clock. Le 16:01. Top 40 hits. Position number 27. E qua abbiamo messo solo la bella musica, the sound of the summer. You're listening to Fergal Kavanagh, e abbiamo in regia il grande Gino Palombo, che infatti non è accanto al suo desk adesso, perché sta ballando intorno per la regia facendo oh oh oh. Grande Gino, ci fai proprio dare questa impressione dell'estate, che siamo a metà luglio e tra poco tornerà il sole. E infatti com'è? C'è il sole adesso fuori e siamo felici, perché stiamo ascoltando i 40 brani più richiesti da voi on Radio Tour The Moving Station. Siamo arrivati col Bumblebee Crime of Passion al numero 27 e andiamo adesso a sentire quello al numero 26, Don't You Worry di Madison. Position number 26. Avete sentito quel bel rap lì dentro? Io e Gino qua stavamo provando di fare un rap, adesso proviamo in diretta, vai. You're listening to Radio Tour. This is Fergal Kavanagh listening to you, playing the best music, il top 40, i brani più richiesti da voi. Forse no, forse è meglio lasciare queste cose a Madison. Comunque, la versione di Madison è piaciuta a voi, non lo so la mia. Però voi avete scelto il numero 26, Madison. Al numero 25 troviamo il figlio di un grande trombista, Don Cherry, cioè uno che suona il trombo, per essere chiaro. Questo al numero 25 è Eagle Eye Cherry, Are You Still Having Fun? E questo testo, i testi di questo brano, sappiamo tutti quanti di che parlano, no? Comunque il video, che ha creato molto polemica, è un po' diverso, non fanno vedere le immagini che vanno proprio con i brani, con i testi di questa canzone, forse meno male, però il video ha pure avuto le sue polemiche, e polemiche pure per i Bloodhound Gang in questo periodo, perché essendo un nuovo gruppo, il consiglio più bello che le posso dare è prendetevi un bel manager che sa organizzare le cose, perché hanno dovuto annullare un concerto a Londra, perché hanno preso un doppio impegno. Che bordello, che casino. Comunque, voi l'avete messo al numero 24 sui brani più richiesti da voi. Noi prendiamo una piccola pausa. Torniamo con il numero 23 with the Backstreet Boys and the One on Radio 2 The Moving Station. Backstreet Boys with I'll Be The One, che troviamo al numero 23 sulla classifica dei brani più richiesti da voi on Radio 2 The Moving Station. E questo è proprio un brano che loro hanno fatto uscire in fretta, perché si sono trovati un po' nervoso, un po' impaurito dell'effetto che NSYNC stavano avendo in America, e perciò hanno deciso di farlo, di registrare questo e dire, oh, noi siamo il numero uno, non scordate di noi. E quindi Backstreet Boys, molto successo per loro, saremo a vedere che succede con la guerra tra di loro, i boy bands, i Backstreet Boys and NSYNC. Comunque, a voi è piaciuto tantissimo, l'avete messo al numero 23. E al numero 22 vediamo degli italiani, che come dico sempre sono conosciuti in tutto il mondo, un bel esporto per la musica italiana. Oh, decidete voi, perché adesso sentiamo il numero 22, Eiffel 65, Too Much of Heaven. Position number 22. Nicolò Fabi al numero 21 sui brani più richiesti da voi. E adesso voglio soddisfare il desiderio di questo cantautore che piace così tanto a voi. Quello sta cantando Se Fosse Marco, quindi la voglio ridisenunciare. Allora, ecco, ascoltate un altro po'. Ok, questo è Marco Fabi al numero 20. Va bene, Marco Fabi al numero 21. Piccolo pubblicità, torniamo col numero 20, che sono i Fragma. Con Tucker's Miracle, che troviamo sulla classifica dei brani più richiesti da voi al numero 20, quindi è il momento di fare un ripiligo gli ultimi 10 che abbiamo sentito. Allora, al numero 30 c'erano gli Orishas con 537 Cuba, 29 Lisa con Gift, 28 Pierpaolo, Io Ci Sarò, al 27 avete votato il Crime of Passion di Bumblebee, numero 26 abbiamo sentito Madison, Don't You Worry, 25 Eagle Eye Cherry, Are You Still Having Fun, e 24 The Bloodhound Gang with a Bad Touch. Backstreet Boys, The One al numero 23, e al numero 22 gli grandi italiani Eiffel 65 with Too Much of Heaven. 21 c'era Nicolò Fabi, Se Fosse Marco, e abbiamo appena sentito il numero 20 con Fragma with Tucker's Miracle. Allora guardiamo un po' in avanti, adesso vediamo il numero 19, vediamo che c'è Whitney Houston, e finalmente un po' di buone notizie per Whitney Houston. Abbiamo già parlato del notizie poco piacevole che sta avendo adesso, i problemi con le droghe eccetera. Comunque finalmente adesso un buon notizia per lei, suo marito Bobby Brown finalmente è stato liberato dalla carcere, infatti ha avuto 10 giorni extra, diciamo, di libertà, perché si è comportato così bene in prigione. Allora i staff lì hanno detto che si è messo molto a disposizione mentre era in carcere, e lui ad uscire ha detto voglio soltanto essere con mia famiglia e amici, adesso torno a casa a passare l'estate con i miei bambini e per lavorare sulla mia vita. Noi le auguriamo il meglio, troviamo sua moglie con George Michael. It's Whitney Houston al numero 19 with If I Told You That. Position number 19. Oh, that's Tonino Carretone with Me Cago En El Amor. Questa bella lingua spagnola, non è che la parlo molto bene, però mi hanno detto quando sono venuto qua che assomigliava molto alla lingua italiana, quindi guardando questo termine Me Cago En El Amor, facendo la traduzione mi arrivano delle idee un po' strane. Ma qualcuno di là parla spagnolo, magari potete mandarmi un messaggio, non lo so, chiamarci a spiegare che vuol dire, non lo so. Allora, voi al numero 17 avete messo questo bellissimo brano, non sbaglio, è il numero 18, sto andando avanti a me, perché tra poco sentiamo il numero 17 che è John Secada with Stop, però prima facciamo una piccola pubblicità. Radio 2 The Moving Station, i brani più richiesti da voi, che questa settimana avete chiamato intanto, avete messo al bel numero 17 John Secada with Stop. Allora adesso vogliamo fare una piccola ripromemoria di qualcosa. Adesso John Secada, che dobbiamo fare? Facciamo un grande avanti, perché è il tempo di prendere carte e penne, fermare tutto e fare un no, non dice mai questo stop. Volevo che John Secada dicesse stop. Che devo fare? Questo cantante non capiscono niente. Perché sbagliano quando vuoi? Che dobbiamo fare, John Secada? Radio Tour, the moving station. La radio dei grandi eventi. È andato bene alla fine, meno male. Allora, grandi eventi dal 18 al 21 luglio. Pizza Mania, 4 giorni dedicato alla pizza, con momenti di spettacolo, moda e gastronomia. Pizza Mania dal 18 al 21 luglio ad Agerola, sull'incantevole costiera amalfitana. Radio Tour c'è. Gigi è il tour estivo di Gigi Proietti col suo nuovo spettacolo A me gli occhi, mercoledì 19 luglio al Molo Engino nel porto di Napoli. Info 081 761 1221, Radio Tour c'è. Il Gran Galà del Piano Bar, mercoledì 19 luglio al Birria Bavarese, Agnano Napoli, Radio Tour c'è. Radio Tour, Radio Tour, la radio dei grandi eventi. Here he goes with his corazón espinado, il cuore proprio felice, mi pare che questo in spagnolo non è roba mia. Comunque, grande Santana che sta avendo un successo, Supernatural, non è per caso l'ultimo album si chiama Supernatural. Voi l'avete messo al numero 15 sulla classifica, il che vuol dire che mancano 14 bellissimi brani fino alla fine della puntata. Infatti manca un'ora intera perché siamo arrivati al punto ora. Ladies and gentlemen, the clock. Le 17 e un minuto. A questo ultimo ora del top 40 brani più richiesto da voi. Io sono Fergal Kavana e dietro questo vetro blindato troviamo il grande bandiere Gino Palumbo. E qua in sottofondo c'è il grande bel Moby al numero 14. Ieri sera ho visto per la prima volta il video di questo Porcelain che c'ha proprio un occhio. Guarda dentro l'occhio, è difficile spiegarlo, è meglio che le guardate voi. E nel frattempo, mentre le cercate, ascoltate il numero 13, Hanson with If Only. Position number 13. Rocky, io voglio spalmare sulla mia pane. Voi lo volete pure sul vostro pane? Magari sì, perché l'avete messo al numero 12, il che vuol dire che mancano soltanto 11 brani che facciamo proprio sentire. Questi sono i brani più richiesti da voi. Voi avete scelto queste canzoni e noi le suoniamo per voi. Piccola pubblicità, torniamo col numero 11 e Bel Perez tra poco. S-S-P-E-O-O-T. Che voi avete messo al numero 11. Allora, Hello World vuol dire che dobbiamo salutare a qualcuno. Allora, qualcuno e più persone. Roberto Gagliardi, DJ, e le gemelline, che sono un bel paio di ragazze. Quindi per questo abbiamo fatto Bel Perez al numero 11. Se siamo al numero 11 vuol dire che dobbiamo fare il riepilogo delle ultime 10 che abbiamo ascoltato su Radio 3 The Moving Station, i top 40 richiesto da voi. Allora, al numero 20 c'erano i Fragma with Tucker's Miracle, 19 Whitney Houston with George Michael, If I Told You That, Mi Cago E Nell'Amore, ancora non ho capito che vuol dire, però al 18 c'è Tonino Carretone, 17 Stop con John Segada e Jennifer Lopez, si trova il numero 16, che sto dicendo, with Let's Get Loud, 15 Santana, Corazon Espinado, e il 14 Moby with Porcelain, If Only Day Hansen al numero 13 e Carmen Consoli al 12 with Parole di Burro, Bel Perez abbiamo detto è al numero 11 with Hello World. E maintenant je dois faire come Jean-Luc, sto provando di fare come il nostro caro amico Jean-Luc, un po' di francese, perché il y a mon coeur che fait boom al numero 10, numero 10, il French Affair, avete capito? Il numero 10, My Heart Goes Boom. La classifica dei brani più richiesti da voi su Radio 2 The Movie Station. Al numero 9, number 9, sentiamo i Gemelli Diversi con Musica e il carino Gino Palumbo. Adesso mi stavo spiegando che Gemelli Diversi non vuol dire i gemelli che sono diversi proprio, vuol dire che sono gemelli che fanno il verso, gemelli diverso. Allora adesso è tutto più chiaro, che io una volta pensavo, ma è chiaro che o sono diversi o sono uguali, perché ce la vogliono specificare? Va bene, bravi questo. Al numero 9 noi prendiamo una piccola pausa per lo spot e torniamo, incontriamoci di nuovo con Gaia e Never Meet al numero 8. S-S-V-V-O-O-T. In italiano sarebbe non ci incontriamo mai più. Comunque non è vero, l'abbiamo incontrato la settimana scorsa e adesso li incontriamo un'altra volta al numero 8. E chi ha deciso di questo appuntamento? Siete stati voi, perché voi avete chiamato in tantissimo a richiedere questo brano da Gaia al numero 8 questa settimana sulla classifica dei brani più richiesti da voi. Allora adesso al numero 7 troviamo il bellissimo John Bon Jovi con il suo gruppo Bon Jovi, It's My Life. Number 7. Flow, qualcosa di grande, il Luna Pop che voi avete messo sul numero 6 on the top 40 hits Radio to the Moving Station. Allora, mi è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice Falchetta. Thank you Falchetta for your message. E tu hai scritto: visto che sei irlandese, dovresti portare il gonnellino, ma lo porti bacio a te e al bel bandieres. Ecco per te, Gino, un bacio da Falchetta. Comunque voglio dirti, Falchetta, che sono i scozzesi che portano il kilt, come si chiamano, questo gonnellino. Però ammetto che mi farebbe molto comodo in questo calore di Napoli, che c'è stato, forse non oggi, però c'è stato in questo periodo, perché fa proprio caldo e, come sapete, non si portano le mutande sotto. Voi avete appena sentito qualcosa di grande di Luna Pop. Non so qual è il collegamento tra questo messaggio e Luna Pop, però va bene. Allora, piccola pausa per noi, torniamo con numero 5 e Britney Spears. È un messaggio per tutti quanti che spagliano nella vita, e quindi vogliamo ringraziare a Michele per il suo messaggio, perché un spaglio si può fare, no? Si può fare, bravi bravi. Allora, adesso è il momento di vedere che c'è da fare stasera. Radio Tour in Tour Kentucky. Questa sera al discoteca Eclipse, animazione gadgets e la nostra Moving Station. Eclipse, uscita tangenziale Varcaturo a Napoli. Radio Tour in Tour. Chiama 081 790 1411. Vamos a ballare. Io mi ricordo in discoteca la notte, dove si balla tutta la notte. Paolo e Chiara, le due sorelle che ci portano questa bella musica al numero 4, richiesto da voi on Radio Tour the Moving Station. Quindi è l'ora di fare un piccolo riepilogo, perché mancano solo 3 brani fino al numero 1. Al numero 10, Nous avons senté, French Affair with My Heart Goes Boom. Number 9, Gemelli diversi with Musica. 8, Gaia, Never Meet. Numero 7, Bon Jovi, It's My Life. Qualcosa di grande. Al numero 6 per il Luna Pop, e al numero 5 Britney Spears, Oops I Did It Again. Al numero 4 abbiamo sentito Vamos a Ballar with Paola e Chiara, che adesso si trovano proprio a Gifone per il Gifone Film Festival. Ma non sono solo, perché ci si trova anche Alexia, che vuole dire a tutto il mondo che la ama. Ti amo. Al numero 3. Number 3. Al numero 2 è Neck, e Neck ultimamente ha fatto un conferenza stampa con Gianluca Grignani a dire che purtroppo, finché la musica non sarà sentita in Italia come un bisogno vero, continueremo a fare i finti in TV. La radio, che saremo noi, e la televisione hanno potenzialità diverse, ma mentre la radio a volte valorizza anche l'aspetto culturale della musica, per la seconda, cioè la televisione, si tratta solo di intrattenimento e promozione. Ci fa piacere che ha parlato bene di noi sulla radio. Neck ci sta al numero 2. Allora è arrivato il momento che stiate aspettando tutti quanti, e avete richiesto in tanti per questo numero 1, 40 brani più richiesti da voi su Radio Tour the Moving Station. Siamo arrivati al punto più importante. Chi ci sarà al numero 1? Mi sembra che sia il grande, grande La Mosca, e Para non vederti mai. Vederti massa, infatti mi è arrivata una bella barzelletta. Siete pronti per questo? Che dice una mosca davanti ad un cancello? Non sapete? Allora fa Mosca Valco! È piaciuto? Vabbè, è il numero uno con un bel barzelletto. Voglio ringraziare Emanuela per questo. Emanuela, tramite il GSM, ha detto pure: ieri ho trascorso un beautiful giornato con il mio ragazzo ed i suoi amici a Capri. Lui si chiama Bomboloni, me lo saluti. Ciao Bomboloni. E voglio anche salutare a James e Carol, che sono venuti da Parigi per questo bel estivo, questo bel estate napoletano. Speriamo che il tempo migliore domani per loro. Noi siamo stati bene oggi. Io sto ancora pronto per ballare. Adesso è sabato sera. Spero che voi siete pronti per ballare, perché adesso arriva Luca with the best music. Ci sarà Fiore. Io, che sono Fergal Kavanagh, vi saluto. Anche Gino Palombo vi saluta, che siamo stati insieme per queste 3 ore. Ci vediamo e ci sentiamo la settimana prossima, oppure domani alle 18. Arrivederci, alla prossima. Ladies and gentlemen, the clock.